America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Avete sentito lo scampanellio di Wall Street, la chiusura delle contrattazioni a New York, del New York Stock Exchange? Beh, questa volta ha avuto una bandiera italiana, Luxottica. Perché Luxottica? Perché si celebrano quest'anno i 50 anni appunto della fondazione di questa straordinaria compagnia che non soltanto si è affermata a livello mondiale, una delle poche nostre vere grandi multinazionali nel settore degli occhiali, ma si è soprattutto affermata anche in America. Ebbene, per festeggiare i 50 anni, il New York Stock Exchange ha dedicato lo scampanellio di chiusura proprio a Luxottica. Ho con me qui ai microfoni di America 24, nei nostri studi, Andrea Guerra, amministratore delegato di Luxottica. Buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, intanto, qual è stata così l'emozione di essere su quel balconcino? Una delle cose divertenti da osservare è come in un mondo tecnologico e digitale come quello di oggi ancora vedi tante persone correre sulla sala e sul floor del New York Stock Exchange. Credo che ci sia veramente questo incredibile divario tra persone che corrono con fogliettini in mano e poi questa enorme tecnologia che gira il mondo. Parlando di tecnologia e di finanza globale, perché non avere soltanto una quotazione magari in Europa? È un po' la storia di Luxottica. Luxottica già negli anni 80 aveva una quota del proprio business in America rilevante. Nel momento in cui Luxottica ha deciso di aprirsi al mondo da un punto di vista finanziario, ha deciso sì di quotarsi in borsa, ma di venire a quotarsi nel più grande mercato, sia degli occhiali sia della finanza mondiale. E da quel giorno sicuramente la nostra vita è cambiata. Oggi abbiamo accesso a mondi, mercati, fonti di finanziamento completamente diverse da quelle che poteva avere una media azienda italiana di quell'epoca. Una storia italiana direi anomala tutto sommato, perché invece noi spesso vediamo aziende che restano un po' più chiuse nel nostro paese, esportano ma non hanno quella mentalità finanziaria internazionale. Ecco, io ricordo, vorrei fare questa piccola parentesi, ma ricordo che una volta Leonardo Del Vecchio, questo mi colpì moltissimo, appunto negli anni 80 di passaggio a New York, venne a trovarmi nel mio ufficio e facemmo una lunga intervista. Mi colpì questa sua straordinaria umiltà, ecco, voglio sottolinearlo, questa sua disponibilità. Mi resi conto che Leonardo Del Vecchio, con questa sua storia del camioncino che aveva alla stazione centrale di Milano quando cominciava a muovere i primi passi nel primo dopoguerra nel settore, beh, altro non era che un sogno americano. Cioè, anche in Italia è possibile il sogno americano, è vero? Io penso che in quella generazione di sogni americani made in Italy ne abbiamo avuti diversi. E quando uno va a guardare e osservare le caratteristiche di quelle imprese, di quegli imprenditori, sono sempre le stesse. E ancora oggi, dopo tanti anni, quelle sono le grandi aziende italiane. Sono imprenditori che hanno sempre avuto il mondo come punto di riferimento e non la regione, la città o la concessione. Due, sono sempre stati imprenditori rimasti focalizzati sul loro core business. Terzo, sono tutti imprenditori che hanno capito a un certo punto che la borsa non era un punto di arrivo, ma era un punto di partenza. Era un punto che di nuovo li faceva rendere osservabili da tanti attori e da tanti soggetti finanziari in giro per il mondo. Facciamo qualche nome. Possiamo sicuramente citare l'azienda per cui ho lavorato nel mio passato, la Meloni Elettrodomestici, oggi Indesit Company. Possiamo parlare di Campari, possiamo parlare di quello che è stato di Bulgari, possiamo parlare di tante realtà italiane. Torniamo al sogno americano. Ecco, perché oggi in Italia sembra essere molto più difficile trovare qualcuno così, che parta da zero e riesca a costruire un impero mondiale, un impero globale, con la passione, con l'umiltà, con la forza, e il paese che frena un po'. Abbiamo un drag culturale, abbiamo un problema culturale, non parliamo troppo l'inglese. Quali sono, secondo lei, gli elementi che oggi frenano l'Italia e che forse andrebbero cambiati? Sicuramente oggi il sistema complessivo italiano non aiuta e quindi devi essere assai determinato per ottenere dei risultati che altri imprenditori o altre imprese in giro per l'Europa ottengono con maggiore facilità. Così stanno le cose, ma lo metto da parte. Credo che tutti si abbia un po' meno fame. Credo che manchi un po' di senso di urgenza. Oggi il mondo dà delle opportunità gigantesche. noi vendiamo 1 milione di occhiali alla settimana, servendo circa 1 miliardo di consumatori. Ma in quale epoca storica si potrebbe dire, bene, nei prossimi 10 anni, oltre a quel miliardo di prima, ne ho altri 2 miliardi da servire? Credo che siamo veramente in un'epoca difficile, ma che pone delle sfide straordinarie. Parliamo un momento dell'Italia. C'è in corso una discussione, un dibattito sulla manovra. Fra le varie cose in discussione c'è un'ipotesi dell'aumento dell'IVA. Ecco, lei come azienda, come reagisce a questa ipotesi? Tutti gli strumenti, tutte le manovre possono essere giuste. Il problema è avere un progetto, è avere un piano, è avere una strada, è avere un percorso. Mi faccia dire anche un sogno. Questo in questo momento manca e per cui stiamo assistendo ad una serie di manovre, una serie di attività che sono più una specie di collage per riuscire a rispettare determinati parametri, determinate regole. È evidente che noi stiamo attraversando come paese un ciclo faticoso, un momento di stanca, un momento di dubbi, di incertezze. Però i paesi non sono come i negozi che se non vanno a un certo punto abbassi la saracinesca, butti via le chiavi e te ne vai. E allora pensare a una progettualità abbastanza diversa per quanto riguarda le nostre scuole, per quanto riguarda le nostre università, per quanto riguarda l'ingresso e i contratti di lavoro dei nostri giovani, per la capacità di questo paese di creare sempre di più un'Italia aperta e dei grandi cittadini del mondo, penso che su questo io ci batterei su un bel po' del mio percorso. Ecco, una cosa importante all'americana che ha fatto Del Vecchio è stata quella a un certo punto di fare un passo indietro e consentire l'ingresso a una squadra di manager professionisti, chiedendo a lei di guidare il gruppo. Perché non succede più spesso da noi questo in Italia, fra le piccole medie aziende che poi inevitabilmente spesso si fanno asfittiche? Vede, ne parlavo l'altro giorno con una persona che ha fatto da questo punto di vista un lavoro strepitoso, che è Marco Drago di De Agostini. E allora stavamo proprio parlando di questo argomento, di come è fondamentale il ruolo del presidente, dell'azionista di riferimento, per quale motivo a un certo punto non si riesce a fare questo distacco da una gestione operativa dell'azienda rispetto a un presidente o amministratore o azionista. E lui, che ha fatto un lavoro straordinario con il suo gruppo, mi ha detto: Andrea, è meno divertente. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguiteci su Twitter 24 America, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. La cantante soul Jill Scott è per la prima volta in vetta alla classifica Billboard degli album più venduti grazie al suo quarto album The Light of the Sun, che ha già venduto 135.000 copie. Jill Scott, So in Low. Yeah, yeah, yeah, yeah. Oh, oh, oh, oh. Yeah. Ooh. I'm glad this week is over. I need to get away. Go home and throw my clothes on. Come get you right away. Can't wait to see you looking lovely. I hope you're thinking of me. Cause all I want is time with you and don't need nothing more. So, so long. I'll do anything. I'll do anything. I'll do anything for you. I'll do it. I'll do it. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going!